L'altra radio accesa, chi è? Oh, avanti sul 10. Daniele? Allora, 8 modulato, 8 e qualcosa, quasi 8 e mezzo. Sì, ti avevo copiato anche 9, ma tu arrivavi 9 quando eri in FM perché ha più watt. Oia. Io sono tornato adesso a casa, stavo provando due antenne veicolari, una è la classica VE1, l'altra è multibanda, cioè ha vari stili. Sono andato molto in alto, tipo scala di ciocca o giù di lì, e mi sono provato due ricevitori e due antenne e li alternavo in base al segnale che beccavo, cambiavo antenna, poi cambiavo ricevitore, vedo che bene o male si equivalgono. E sono tornato adesso, quindi tutto buono, tutto ok. L'altra, ma devi, cioè ne hai due che alterni o devi cambiarla? Dimmi un po'. In coppia, accoppiate, in teoria si potrebbe fare, usare antenne accoppiate e hai un guadagno superiore, però dovrebbero essere due antenne identiche, ma non vuol dire nulla, adesso magari ho detto una cavolata. Cosa ti volevo dire? Non è entrato nessuno stasera? Sempre in mezzo sono. Senti il gatto grattando il cartone, facendo casino. Sì, infatti si è fatto tardi, cioè sono quasi le 19.53, sono quasi le 8 e io stavo mettendo a posto la baraonda, che mi sono provato un bustone, due antenne, due ricevitori, vari adattatori, accessori vari, dai, chiave a brugola, non sa mai che servisse. Va bene, quindi per ricevere già andava bene. La prossima volta la provo in trasmissione per vedere se risuona da qualche parte. A me, guarda, se mi copre il PMR in trasmissione è grasso che cola, K. Va bene Daniele, che dire, dai, anche io adesso mi dedico a mettere tutto a posto, poi piano piano preparo qualche lecornia per la cena e poi un po' di TV o film, quello che è, speriamo che ci siano film belli, se no mi metto roba mia. Ci ho ancora pensato addirittura a videocassette, ci ho 4 mi pare, sì, funzionanti, 4 VCR a cassette, non li voglio buttare, ci ho di cassette anche. Sì, ma io accedo in tutto, Daniele. per esempio cassette o anche un bel di cassette vergini, in modo da, volendo anche registrare, non ha molto senso, perché il decoder digitale terrestre registra già in full HD, quindi non avrebbe senso usare il videocassette, però a me non piace buttare la roba funzionante, anche se obsoletta, se è funzionante la tengo. Poi quando crepo io vedrai che i parenti butteranno tutto dalla spazzatura, baracchini, radio, droni, tutto, arceria, tutto nella mondezza. Vedrai, ma lo so già. Infatti mi, quando crepo, vi dico già, cioè prima di crepare vi dico già in quali due cassonetti guardare, via numero civico, troverete tante le cornie dentro, ma tante, portatili, banda, ammazzi ne ho, PMR omologati, PMR non omologati, bau bau, di dutuve. E questo solo il settore radio, più c'è tutto il resto. Sembra il magazzino di GBC la mia camera. Non so se sei presente. Sì, poi sa cos'è, io ho la maniera di conservare le scatole originali per quanto riguarda almeno le radio, no? Magari per un televisore no. Però per le radio ricevitori ho tutte le scatole originali con tanto di scontrino in modo da dimostrare che è tutta roba legittima e pagata, eccetera. Va bene, Daniele, io ti saluto e ci sentiamo. Come vedi un po' il baracchino langue, ma vedrai che facciamo un giro di telefonate, oppure andiamo a suonare il campanello a mezzanotte, vedrai se non entra in radio il giorno dopo. Buona cena, buon tutto, ciao ciao. Aspetta Daniele, un attimo. Ma eri tu che provavi in banda laterale sul 10, perché io poi stavo facendo roba di sempre di antenne, non ho ascoltato chi era l'altro interlocutore, non ho capito. Ah, ma Alghero, quello che è entrato stasera, cioè Almedo, Olmedo Alghero, dai, diciamo. Sì, guarda, Sassari senti tutti, certo se qualcuno magari ha troppi pochi watt, magari se c'è propagazione è un macello, però con i watt normali, o meglio con l'aiutino, non c'è problema alcuno. Di nuovo, ciao, buona serata, ciao ciao, Quality Esecutivo. No, 4 watt del 3009, 4 watt, nudo, crudo e... Contraccambiato, ciao ciao. Oh, ci sono, eh. Ah sì, segnale 7 picchi di 9. E vabbè, non è male, comunque ne fai male di più forte in modulazione, eh. Ciao Luca. Ciao Marco. Vabbè Marco, ma con gli occhi, hai rotto i coglioni, vuoi parlare con un muro? Ciao Luca, ben entrato. Quindi stasera stavo facendo delle prove in altura con lo stesso ricevitore che hai tu. Stavo testando due antenne. E ti volevo dire, dalla cronologia della chat mi sono accorto che io però ti avevo già mandato le istruzioni in italiano di quel ricevitore, Luca, perché io mi ricordo i canali glieli avevo già memorizzati a quella persona, i canali erano già memorizzati, quelli di interesse, tanto mi non c'è altro, Luca, non c'è null'altro di ascoltabile. E poi il manuale era quello marcato Albrecht, mi pare fosse in italiano proprio. E tu non so cosa volessi saper fare in particolare, cosa mi stavi chiedendo in particolare, che funzione volevi sapere, poi lo vedremo con calma, non lo so, ci vediamo se vuoi. No, niente di particolare, l'ho parcheggiato proprio, non ho più pazienza, credimi, non ho più pazienza, non è passata proprio la fantasia di tutto. La verità, se no mi sarei messo magari, ma non ho più voglia, Marco, guarda, sono sincero, non ho più gana di combattere con questi giocattoli. Una domanda, ma a te come filosofia di ricevitore non ti piace, no? Cioè non ti sei trovato bene? No, troppo sofisticato. Comunque Luca, se non ti trovi bene, perché poi quando fai la scansione ricevere, il canale in memoria ce l'hai già, se non ti dovesse piacere contattami se lo vuoi vendere in futuro e dico. No, così c'ho il ricambio, capito? È uguale, identico al mio, ci avrei il ricambio. In caso di rotture, pezzi di ricambio, boh. Ok, signori, dai, devo chiudere. Proseguite, buona serata a tutti, ciao. Marco, sì, ve lo farò fuori, non so che prezzo abbia però. Allora, il prezzo da negozio è alto, siamo credo sui 130-140 euro se non di più. Ho controllato la scatola mia, ma dentro c'era di tutto di più, cioè a te ti hanno dato solo ricevitore e boh, punto, senza nemmeno cavo. Nella scatola c'era il cavo per casa, il cavo accendisigari, l'alimentatore suo originale, volendo, la staffettina per la macchina, l'antennino, un piccolo long wire con le ventose da mettere sul vetro della macchina. Cioè, comprate il negozio, ti danno un pacco, una marea di accessori. E quello non saprei quantificare il prezzo perché è solo l'apparato in sé, nudo e crudo, capito? No, c'è solo il cavo d'alimentazione e basta. La staffa non c'è, no. E c'è l'attacco del PL, ovviamente, quello lì c'è. Non c'è altro, così era, Marco, tutto pulito perché era incrostato, dai, sai che purtroppo fumavate un sacco, era molto sporco. Eia. Peccato però che te l'abbiano dato così, cioè loro sono andati a strazzadura. Bello sarebbe avuto con la scatola, c'erano tutti gli accessori e lo potevi anche vendere a un prezzo molto maggiore se proprio non ti piace. E vabbè, pazienza Luca. No, non mi piace, guarda, se mi danno 4 ore se lo portavo via. Parliamone, però domani, dai, che stasera sono indaffarato. Sì, non sarebbe male, per avere il gemello, ma poi alla fine. È interessante però come storia, perché a molti non piace quel sistema. Pensa che la persona che ce l'aveva prima non ci stava capendo una mazza. I canali li ho memorizzati io e poi li avevo dettato. Allora premi qui e ti fa questo, tieni premuto e ti fa quest'altra cosa. Per cambiare banda premi qui, però alla fine sono le stesse istruzioni, gli ho detto quello che diceva il manuale Albrecht che ti avevo già mandato, guarda che lo trovi mi, comunque nella chat, basta che vai un po' indietro. Dai signori, devo chiudere che mamma ha fame, ciao Daniele, riprendi. Ah, ok. Ah. Capito, capito. Sta usando quello sulla destra. Ale, caro caro. Tu che stai parlando, che lo sento basso? Daniele, ah, ma già, non è forte, forte, forte, ma già arriva bene. Avanti, Daniele. Oh, dimmi tutto. Santiago 7, sì, qua, la latte dolce. Va bene, meglio così. Ma dai, ho acceso così perché ho visto l'alimentatore acceso, ho visto. Mamma mia, giusto, ma funziona tutto in occhi. E adesso, dai, adesso vi devo lasciare, ci sentiamo un altro momento che c'ho gente a casa, ok? Ciao, ciao a tutti, non so, non ho fatto neanche ascolto chi c'era. Luca, e Anto, sta ancora un messaggio audio. Va bene, Anto. Ok, dai, vi devo lasciare, ciao, ciao. Ciao ciao, bene arrivo lì a Itidi, a Uzi, in DC. Uguale qua a Sassari. Va bene, ciao ciao, ci sentiamo, ciao ciao ciao. Dai Daniele, anche io adesso chiudo per domani mattina, le 3:30 suona, purtroppo. Vabbè dai, ci aggiorniamo magari quando sei a riposo, facciamo delle prove, non c'è problema, dai. Buona carica, buon tutto. Ciao Daniele. Grazie, comunque confermi che gira bene questa cosa. Sì, dai, non è male, dai. Non è male. Quanti watt? 25, vai. Vuoi aumentare? Ma posso aumentare, aspetta che metto un po' di più. Guarda adesso, Lugarie. Adesso è fisso 7, a picchi di 9. Come prima? Com'è? No, allora, prima lampeggiava, da sì, a 7 a picchi di 9, sì. 7 fisso a picchi di 9. Fa una prova in AM. Guarda in AM, come lui? Ah, in FM, perdon, in FM. Prova un po'. Guarda Lugarie, tu sei da una telefonata, sì, guarda com'è. Tu uguale. Sì, il segnale è così, dai. È così, vabbè, qua è digitale. Lo strumento di questa radio qua. Sì, proprio una telefonata, Daniele. Più pulita è la modulazione. Sta sparando tutti i fat, sta sparando, capito? Non so perché sto toccata, è andata sul canale 9, boh. Aspetta, pensavo fossi in AM. E cosa hai detto, Lu? Ho detto che me lo sono trovato a canale 9, non so cosa ho toccato. Ah, io ti sentivo più, ho detto, boh, sarà passato in AM, non lo so. Vabbè, capita, anch'io stamattina stavo parlando dopo pranzo e mi sono trovato a... No, poco fa, con Marco, mi sono trovato a 073. Comunque, la radio è ottima, sì, sì, in FM è una bomba, no, proprio una telefonata. Arrivi a bomba, proprio bene, bene, bene, bene. Meglio così, va bene, bene, veda. C'è una puntina mia, se sollevo anche Marco me te lo va a strappare poi. Ah vabbè, lo regoli giusto come deve andare, basta, stai lì a aumentare e fare, va. Va bene Daniele, dai, va bu, dai. Fai una buona carica, ci sentiamo magari appena sei libero. Anche lo stesso, sono a casa, fine settimana sono a, fino a venerdì sono a casa, sabato non esco. Vado lo sabato, visto che domenica è riposo. E niente, si può fare delle prove, dai. Però in FM non ce n'è. Arrivi proprio a bomba. Vedi, allora, domani sono libero, fino a domani sono libero. Ci ho smontato stamattina dalla notte. E se ci riesco, questo la mantella a piazza. Perfetto, da fuori l'hai trovata? No, qua in zona è. È nuova? Ma si vede che è stata usata, io ho visto i peggiori, e già è messa abbastanza bene, gli ho dato una pulizia, e va bene. E va bene, da adesso sono usciti, da adesso sono staccati? No, staccati, devo riattaccare la diavola. No, non potevo portarmela. Ma sono attaccati? No, staccati lui. Sì, allora se ne esco le radio li vuol dire che è a posto. Ho detto una bella pulita lì, zona, come si chiama? La spirale, quella zona lì. Bulloneria cambia tutto, se puoi metti acciaio e sei più tranquillo. E poi una volta che la piazzi vulcanizza bene dove inserisci i radiali, lì il bullone, dai, diciamo, cioè il bullone, sì, con un asse vulcanizzante, ovviamente è un asse isolante. Vedrai che poi magari quando vai a smontare la devi pulire e la smonti, perché se non la fai bene che entra un po' di acqua, te la ossida, ciao, ciao. Infatti, mi sto facendo a specchio, diciamo, tutte le giunzioni, tutto quanto, e poi la vulcanizza bene, cioè l'altro vulcanizzante, l'altro isolante e tutto quanto. E domani cerco di salire sul palo. Metti la vasellina da pronto soccorso. Cosa ti manca a te? E beh, Antonio? Metti la vasellina da pronto soccorso, vedrai a cazzo che risparmi i soldi. Ciao Luca, saluto. Come siete, Antonio? Ehi, ho detto ciao Luca, saluto. Ti stavo guardando la cosa adesso. Si vede la stazione spaziale, cazzo, ma bene, sembra di un coso, sembra un, come ti posso dire, una stella al contrario, cazzo, poco si vede bene stanotte, la vedo io proprio dalla parte di carbonazzi ce l'ho, stavo guardando la frequenza, è 145-800, si sente un tubo. Vabbè, ma mi avevi procurato poi quell'LCD a 32 pollici, che ho un attivo da sistemare. Ce l'ho qua, quello 32 pollici. Adesso il fatto che mi sono consumato tutti i soldi da una cosa all'altra. Ma la questione di Simona che non sta molto bene, quindi sto facendo. Hai capito? Spaccato, cioè, io sai che lui ti ha dato il 21 questo mese, quindi. Il prossimo mese ce li ho, speriamo bene che dovrebbero dare di più, 800 qualche cosa dovrebbero dare, così me lo te la do e me la sistemi, mi cambi l'alimentatore e siamo a posto. Pompo, guarda se mi ascolti con questo giocattolo. 9.40 sei qua. Ehi, anche tu. Capito Luca, appena ritiro come si chiama il soldi ti chiamo, così vieni a prendere il televisore, mi ordini il pezzo da internet e fai quello che vuoi e poi mi dici quanto ti devo dare. Pompo, il problema è bisogna vedere se l'alimentazione o l'altra scheda, la scheda video, dai. No, è l'alimentatore, non ti preoccupare, l'ho già guardato, c'è un diodo, c'è bruciato. Cioè, è bruciato, ma male è uguale all'altro che c'è sotto, preciso identico era, quando ho dato la sigla. Uno di questi diodi è capito SMD. Tutti gli altri quattro li ho tutti cambiati per sicurezza, quindi erano normali, sono trasfusato e li ho cambiati. L'altra scheda non c'è niente di bruciato, ma male. Sì, ho capito, e vabbè, fammi sapere. Un LG32 pollici e beige, di colore beige. Vabbè, adesso non mi ricordo la sigla, la verità, ma comunque ho controllato, costa intorno, cioè su eBay a seconda mano 32 euro, ma non mi fido. ti abbassano in 40 compreso, 4 nella di quel baracchino che ho ordinato, cazzo, me la vozzo. Ordino un baracchino, mi danno una valigetta, ragazzi, con un 4 cacciaviti e un taglierino appena appena lì in assenso volante. Poi dato, è la pinza. Sì, vabbè, fregature purtroppo ci sono. È così. Dai, io adesso sto aspettando la telefonata e chiudo, dai, Daniel. E poi magari mi volo così e non va bene. Sto aspettando la chiamata. Ci sentiamo quando sei libero, come sapere, dai. Ok. Poi magari quando piazzi con la mantova facciamo le prove. E io quando arrivo da te, Daniel, in FM. Tu sei 9.30, 9.30 Radio 5, va bene. Sembriamo a Sassari, eh. La Radio 2 è potente, è bella, bella, bella. Poi c'è proprio da te quando arrivo, 20 watt ciò, Penso, aspetta. Sì, a 20 watt sono. 9.60 sei qua. Tu sei a fondo scala, via. La radio è buona, sì? Ho voglia che è buona. Io sto facendo con microfono normale di questo apparecchio. Perché per non attaccare l'amplificato adesso, non per altro, non per altro, ma sto usando il... mi va bene il microfono normale, 240. Ah, va bene anche la tua radio, perfetta, bella, sì. Ah, va bene, FM, si sa che va bene, va buono, dai, vi abbandono io, dai. Daniel, la pompone arrivi forte perché c'hai, cioè, non dico vicini, però lui è in alto, è normale che arrivi bene lì. Dammi un po' meno perché purtroppo devi fare un bel po' di strada, poi palazzi e palazzoni, riempimento di bottoni, così. Babbo, dai, questo passaggio chiudo, ciao. Cappa di Rosmetro, anch'io, dai, per fare carichetta. Ci ascoltiamo più tardi o domani. Antonè, noi ci aggiorniamo, dai. E niente, dai, buon proseguimento e buon tutto. Ok, d'accordo. Alla prossima a tutti e due, buon quality, buon tutto e ci sentiamo. Cappa di Rosmetro. Ciao ragazzi, ciao ciao, sono Tony, circolari anche l'eventuale ascoltoni. Ciao ciao. Ciao ciao.